Per fortuna, trovai molto a proposito nella mia memoria. C'è sempre ogni specie di cose, alcune pericolose, altre salutari, in quell'accozzaglia in cui i ricordi non si illuminano che uno alla volta. Rinvenni, come un operaio l'oggetto che potrà servirgli per ciò che vuol fare, una frase della nonna. Parlando d'una storia inverosimile che l'inserviente delle docce aveva raccontato a Madame de Villeparisis, mi aveva detto: «Quella donna deve avere la malattia della menzogna». Questo ricordo mi fu di grande aiuto. Che portata poteva mai avere ciò che l'inserviente aveva detto ad me? Tanto più che, in fin dei conti, lei non aveva visto niente. Si può andare a far la doccia con delle amiche senza che si debba per forza pensar male. Forse, per vantarsi, l'inserviente esagerava l'entità della mancia. Avevo ben sentito Françoise sostenere una volta che zia Léonie aveva detto in sua presenza d'avere 1 milione da mangiarsi ogni mese, il che era pura follia. Un'altra volta che aveva visto zia Léonie dare a Eulalie 4 biglietti da 1000 franchi, quando un biglietto da 50 franchi piegato in 4 mi sembrava già poco verosimile. E così cercavo, e a poco ci riuscii, di disfarmi della certezza dolorosa che avevo conquistato con tanta fatica, sballottato com'ero senza posa fra il desiderio di sapere e la paura di soffrire. La mia tenerezza, allora, poté rinascere. Ma subito, assieme alla tenerezza, una tristezza d'essere separato da Albertine, che mi rendeva forse ancora più infelice che nelle ore appena passate, quando a torturarmi era stata la gelosia. Ma quest'ultima rinacque d'un tratto, pensando a Balbec, a causa dell'immagine d'un tratto rivista che prima d'allora non m'aveva mai fatto soffrire e mi sembrava anzi una delle più inoffensive della mia memoria, della sala da pranzo di Balbec alla sera, con, al di là della vetrata, tutta quella gente ammassata nell'ombra a guardare gli strani esseri che si muovevano in quel chiarore, come davanti alla vetrata luminosa d'un acquario, conglomerazione per effetto della quale le donne dei pescatori e le ragazze del popolo sfioravano, non ci avevo mai pensato, le piccole borghesi invidiose di quel lusso nuovo per Balbec, lusso che se non gli averi, perlomeno l'avarizia e la tradizione interdicevano ai loro genitori. E fra queste piccole borghesi c'era certamente quasi ogni sera Albertine, che non conoscevo ancora e che probabilmente seduceva là qualche ragazzina da raggiungere pochi minuti dopo, al buio, sulla sabbia, oppure in una cabina abbandonata, ai piedi della scogliera. Poi era la tristezza a rinascere. Avevo sentito, simile a una condanna all'esilio, il rumore dell'ascensore, che invece di fermarsi al mio piano, continuava a salire. Eppure la sola persona di cui potessi augurarmi la visita non sarebbe venuta mai più. Era morta. E malgrado ciò, quando l'ascensore si fermava al mio piano, mi batteva il cuore. Per un istante pensavo, e se alla fine fosse tutto un sogno? Forse è lei. Sta per suonare, è di ritorno. Françoise sta per venirmi a dire, con più spavento che collera, perché è ancora più superstiziosa che vendicativa, e avrebbe meno paura di lei viva che di quello che crederà forse un fantasma. Il Signore non indovinerà mai chi c'è di là. Cercavo di non pensare a niente, di prendere un giornale, ma la lettura di quegli articoli scritti da persone che non conoscono il vero dolore mi era insopportabile. Uno, d'una canzone insignificante, diceva «fa venire da piangere», mentre io l'avrei ascoltata con tanta allegria se Albertine fosse stata viva. Un altro, grande scrittore del resto, diceva, perché lo avevano acclamato quando era sceso dal treno, d'aver ricevuto testimonianze indimenticabili, e io, se le avessi ricevute ora, non ci avrei pensato per un solo momento. E un terzo assicurava che senza la dannata politica la vita a Parigi sarebbe stata assolutamente deliziosa, mentre io sapevo che per me tale vita non poteva essere, anche senza politica, se non atroce. E anche con la politica mi sarebbe parsa deliziosa se avessi ritrovato Albertine. Il cronista cinegetico diceva, si era al mese di maggio, questo periodo risulta davvero doloroso, per dir meglio sinistro, al vero cacciatore, perché non c'è niente, assolutamente niente a cui sparare. E il cronista del Salon, Di fronte a questo modo di organizzare un'esposizione ci si sente invasi da un immenso sconforto, da una tristezza infinita. Se la forza di quel che sentivo mi faceva apparire pallide e menzognere le espressioni di chi non aveva vere felicità o infelicità, in compenso, le righe più insignificanti che, sia pure alla lontana, si potessero collegare alla Normandia, o a Nizza, o agli stabilimenti idroterapici, o alla Berma, o alla principessa di Guermont, o all'amore, o all'assenza, o all'infedeltà, mi rimettevano, bruscamente, senza che avessi il tempo di distogliermene, di fronte all'immagine di Albertine, e ricominciavo a piangere. Quei giornali, d'altronde, di solito non li potevo neanche leggere, perché il semplice gesto di aprirli mi ricordava che ne facevo di simili quando Albertina era viva e insieme che non lo era più. Li lasciavo cadere senza avere la forza di spiegarli del tutto. Ogni impressione evocava un'impressione identica ma ferita, perché ne era stata estirpata l'esistenza di Albertina, sicché non avevo mai il coraggio di vivere sino in fondo quegli attimi mutilati che soffrivano nel mio cuore. Anche quando a poco Albertine cessò d'essere presente al mio pensiero e onnipotente sul mio cuore, di colpo ricominciavo a soffrire se dovevo, come quando c'era lei, entrare nella sua camera, cercare la luce, sedermi accanto alla pianola. Suddivisa in tanti piccoli dei familiari, Albertine abitò a lungo nella fiamma della candela, nella maniglia della porta, nello schienale d'una sedia e in altri domini più immateriali come una notte d'insonnia o il turbamento provocatomi dalla prima visita di una donna che m'era piaciuta. Ciò nonostante, le poche frasi che i miei occhi leggevano in una giornata o che il mio pensiero ricordava d'aver letto eccitavano spesso in me una crudele gelosia. Non occorreva tanto per questo che esse mi fornissero un argomento valido a favore dell'immoralità delle donne, quanto che mi restituissero una vecchia impressione legata all'esistenza di Albertine. Trasportati allora in un momento dimenticato, la cui forza non era stata ancora smossata per me dall'abitudine di pensarci e in cui Albertine era ancora viva, le sue colpe prendevano qualcosa di più vicino, di più angoscioso, di più atroce. Tornavo allora a chiedermi se le rivelazioni dell'inserviente delle docce fossero davvero false. Un buon modo per sapere la verità sarebbe stato di mandare Aimée a passare qualche giorno in Touraine, nei pressi della villa di Madame Bonton. Se amava i piaceri che una donna si prende con le donne, se era stato per non esserne privata più a lungo che m'aveva lasciato, non appena libera, Albertine doveva aver cercato di abbandonarvisi ed esserci riuscita, in un paese che conosceva e dove non avrebbe scelto di rifugiarsi se non avesse pensato di trovarvi maggiori opportunità che in casa mia. Non c'era niente di straordinario, probabilmente, nel fatto che la morte di Albertine avesse così poco modificato le mie preoccupazioni. Quando la nostra amante è viva, gran parte dei pensieri che chiamiamo il nostro amore ci vengono durante le ore in cui lei non è al nostro fianco. Così prendiamo l'abitudine di avere come oggetto delle nostre fantasticherie un essere assente, il quale, anche se rimane tale soltanto per poche ore, durante quelle ore non è altro che un ricordo. La morte così non cambia poi molto. Quando Aimée fu di ritorno, gli chiesi di partire per Nizza. E posso dunque dire che non soltanto attraverso i miei pensieri, le mie tristezze, il turbamento datomi da un nome collegato sia pure alla lontana con un certo essere, ma anche attraverso tutte le mie azioni, le indagini che intraprendevo, l'uso che facevo del mio denaro destinato per intero a conoscere le azioni di Albertine, per tutto quell'anno la mia vita continuò ad essere occupata da un amore, da una vera e propria relazione. E colei che ne era oggetto era una morta. Si dice a volte che qualcosa d'un essere può sussistere dopo la sua morte se questo essere era un artista e ha messo qualcosa di sé nella sua opera. Allo stesso modo, forse, una sorta di talea prelevata su un essere e innestata nel cuore di un altro vi prosegue la propria vita anche quando l'essere da cui essa proviene sia perito. Aimée prese alloggio accanto alla villa di Madame Bontemps. Lì fece conoscenza con una cameriera, con un noleggiatore d'automobili, da cui spesso Albertina andava a prenderne una per tutta la giornata. Costoro non avevano notato nulla. In una seconda lettera, Aimé mi diceva d'aver saputo da una piccola lavandaia del luogo che Albertine aveva un modo particolare di stringerle il braccio quando le riportava la biancheria, ma, diceva, la signorina non le aveva mai fatto altro. Inviai ad Aimé del denaro per pagargli il viaggio, per pagare il male che mi aveva fatto con la sua lettera, e tuttavia mi sforzavo di guarirne, dicendomi che quella familiarità non comprovava alcun desiderio vizioso, quando ricevetti un telegramma di Aimé. Saputo cose interessantissime, mucchio notizie per Vossignoria, segue lettera. Il giorno dopo arrivò una lettera, la cui busta fu sufficiente a mettermi i brividi. Avevo capito che era di Aimé, perché ogni persona, anche la più umile, ha alle sue dipendenze quei piccoli esseri familiari, al tempo stesso vivi e immersi sulla carta in una specie di torpore che sono i caratteri propri a lui solo della sua scrittura. In un primo tempo la piccola lavandaia non ha voluto dirmi niente, giurava che Mademoiselle Albertine non aveva mai fatto altro che pizzicarle il braccio, ma per farla parlare l'ho portata a pranzo, l'ho fatta bere. Allora mi ha raccontato che si incontrava spesso con Mademoiselle Albertine in riva al mare quando andava a fare il bagno. Che Mademoiselle Albertine, che aveva l'abitudine di alzarsi di buonissima ora per andare a fare il bagno, aveva l'abitudine di incontrarsi con lei sulla riva, in un posto dove gli alberi sono tanto fitti che nessuno può vedervi e del resto a quell'ora non c'è nessuno che vi possa vedere. Poi la lavandaia portava le sue amichette e facevano il bagno e siccome c'era già molto caldo e picchiava duro anche sotto gli alberi, restavano lì nell'erba ad asciugarsi, ad accarezzarsi, a farsi il solletico, a giocare. La piccola lavandaia mi ha confessato che le piaceva molto divertirsi con le sue amichette e vedendo che Mademoiselle Albertine le si strofinava sempre contro nel suo accappatoio, lei glielo aveva fatto togliere e le faceva delle carezze con la lingua sul collo e sulle braccia e persino sulla pianta dei piedi che Mademoiselle Albertine le tendeva. La lavandaia si spogliava anche lei e giocavano a spingersi nell'acqua quella sera, non mi ha detto altro. Ma io, devoto ai vostri ordini e disposto a fare qualsiasi cosa per compiacervi, mi sono portato a letto la piccola lavandaia. Mi ha chiesto se volevo che mi facesse quello che faceva Mademoiselle Albertine quando Mademoiselle Albertine si toglieva il costume da bagno e mi ha detto «Dovevate vedere che salti faceva la signorina». Mi diceva «Ah, mi mandi in estasi» ed era così eccitata che non poteva fare a meno di mordermi. Ho visto ancora i segni sulle braccia della piccola lavandaia e capisco il piacere di Mademoiselle Albertine, perché la piccina è davvero bravissima. Sì, avevo sofferto a Balbec quando Albertine mi aveva rivelato la sua amicizia con Mademoiselle Vinteuil, ma Albertine era là per consolarmi. Quando poi, per aver troppo cercato di conoscere le sue azioni, ero riuscito a far sì che se ne andasse, quando Françoise mi aveva annunciato che non c'era più e m'ero ritrovato solo, avevo sofferto di più. Ma almeno l'Albertine che avevo amata rimaneva nel mio cuore. Adesso, per punirmi d'aver spinto troppo oltre una curiosità alla quale, contrariamente a quanto avevo supposto, la morte non aveva messo fine, quel che trovavo al suo posto era una fanciulla diversa, che moltiplicava le menzogne e gli inganni là dove l'altra m'aveva così dolcemente rassicurato, giurandomi di non aver mai conosciuto quei piaceri che, nell'ebbrezza della libertà riconquistata, era andata a riconquistare sino al deliquio, sino a mordere la piccola lavandaia che incontrava al sorgere del sole sulla riva della Loira e alla quale diceva «mi mandi in estasi», un'Albertine diversa, e non solo nel senso in cui intendiamo la parola «diverso» quando si tratta degli altri. Se gli altri sono diversi da quel che abbiamo creduto, è solo in regioni superficiali del loro essere che noi situiamo tale diversità, giacché non è nel profondo che essa ci colpisce, e il pendolo dell'intuizione non può proiettare fuori di sé che un'oscillazione uguale a quella che ha eseguito al proprio interno. Un tempo, quando venivo a sapere che a una donna piacevano le donne, non per questo essa mi appariva una donna d'altro tipo, di un'essenza particolare. Ma se si tratta di una donna che amiamo, per sbarazzarci del dolore che proviamo all'idea che possa essere così, noi cerchiamo di sapere non soltanto cosa abbia fatto, ma cosa provasse facendolo, che idea avesse di quel che faceva. E così, inoltrandoci sempre di più attraverso la profondità del dolore, giungiamo al mistero, all'essenza. Soffrivo sino in fondo a me stesso, sin nel corpo, sin nel cuore, assai più di quanto m'avrebbe fatto soffrire la paura di perdere la vita, di quella curiosità cui collaboravano tutte le forze della mia intelligenza e del mio inconscio. Ed era così, nelle profondità stesse di Albertine, che proiettavo ora tutto quanto venivo a sapere di lei. Il dolore che la realtà del vizio di Albertina aveva fatto penetrare a una tale profondità dentro di me mi rese, molto più tardi, un ultimo servizio. Come il male che io avevo fatto alla nonna, così il male che Albertina aveva fatto a me, fu un ultimo legame fra noi due, e un legame che sopravvisse persino al ricordo, giacché la sofferenza, con la conservazione d'energia che tutto quanto è fisico possiede, non ha nemmeno bisogno delle lezioni della memoria. Allo stesso modo, un uomo che ha dimenticato le belle notti passate al chiaro di luna nei boschi, continua a soffrire dei reumatismi che si è buscato allora.